Radio 24 Reportage. Nautica, il Made in Italy vince sulla crisi, di Andrea Ferro. A Viareggio le barche prendono forma modellandosi sulla naturalezza di una vocazione, grandi o piccole, a vela o a motore. La zona dei cantieri pare un formicaio, un caos calmo dove ognuno sa quello che deve fare. Per raccontare la nautica dalle sue fondamenta non si può che partire da questo distretto incastonato in uno dei tratti più blasonati della costa tirrenica, a suo modo simbolico di una concezione del mare intesa a tutto tondo, relax, divertimento, mondanità, ma soprattutto lavoro, idee, ingegno, sfida continua con se stessi e con il mondo, perché il mare non dorme mai. Qui il Made in Italy è un'espressione che valica le epoche eppure le crisi. La burrasca pare sia passata, non sono solo i numeri a dirlo, basta vedere gli scafi impostati o quelli che sono in mare. Ecco voci ed emozioni ad esprimere ingegno ed impegno, un capitolo di vita vissuta e di creatività fervida. Il mare è l'idea della libertà, l'idea dello spazio, è quello che ti dà nel cuore qualcosa che nessun'altra cosa ti può dare. Francesco Guidetti è il presidente di FIPA Group, un gruppo che raduna marchi storici. Da Massarosa, il suo paese, da bambino sognava il mare. Ho dei fratelli che purtroppo che oggi mancano, che avevano 17-18 anni più di me, aprirono un negozio in Viareggio e mi ricordo quando io avevo 6-7 anni, 8 anni, 9, litigavo con i miei fratelli perché mi portassero con loro a questo negozio a Viareggio. Poi dopo le scuole ho fatto per esigenze, per evidenti esigenze, ho fatto un po' anche altri lavori, però rimanendo sempre nel cuore la nautica. Negli anni 80 invece, per una combinazione di cose, dal momento della vetroresina mi è piaciuto iniziare a far vetroresina, e a quel tempo iniziai a far vetroresina per conto terzi. Riconobbi la vetroresina uno dei materiali del futuro. Questo poi mi ha dato ragione, perché io ho lavorato vetroresina negli anni 85 e poi ho rilevato nell'anno 87 il marchio Maiora, 2001 ho rilevato il marchio Abiot, 2005 Cibinnavi, e abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche oggi, anche se oggi è veramente da tenersi con le spalle strette. Crisi sta finendo, guardi, con la mia voglia di farla finire. Col mio pensiero ottimista direi di sì. In realtà credo che questa crisi sia una crisi talmente basilare, talmente incastrata specialmente nella nostra Europa, che non è facile farla finire. Indubbiamente anche oggi quello che facciamo noi, cerchiamo di lavorare all'estero, dove ancora la nautica c'ha sempre tutta da essere scoperta, non esiste ancora la nautica vera. Io credo che la nautica in realtà non finirà mai. Non finirà mai, perché il rapporto col mare è talmente bello che se uno ha qualche possibilità e si approccia al mare è difficile che ce li scappi. Ai cantieri Vismara le barche le fanno su misura, come un abito, come una casa. Non c'è segreto, solo una filosofia di lavoro che coniuga originalità e fantasia, pragmatismo ed elevata tecnologia, miscelando tutto nelle dosi che paiono giuste, nell'essenzialità tipica e unica di ogni creazione non convenzionale. Alessandro Degli Innocenti è il direttore commerciale. Cosa vuol dire costruire una barca, immaginare una barca, vendere una barca? Beh, costruire una barca innanzitutto è entrare nel mondo, almeno nella nostra tipologia di costruzione di barca, è entrare nel mondo dell'armatore che costruirà la barca, perché vuol dire cercare di capire che cosa vuole, che cosa desidera, che cosa si aspetta da questa barca, e noi gliela realizziamo. Questo è un po' il nostro mondo, che è completamente diverso dal mondo delle barche di serie. In genere da voi viene chi il mare lo conosce bene? Sì, in genere da noi viene chi ha già avuto la seconda, la terza barca e diciamo in un certo senso ha trovato dei difetti in una, ha trovato dei difetti in un'altra, comincia a immaginarsi: ma se io facessi una barca la vorrei così, la penserei in questa maniera, viene qui e noi gliela realizziamo. Quindi bisogna essere un po' psicologi, conoscere, capire il cliente, in qualche modo immaginare quale possa essere la barca dei suoi sogni, sì. Magari spiegandogli che i sogni non sempre possono essere tutti insieme realizzati, è così? Sì, sì, è questo. E quello che ha detto è proprio una cosa importante, perché a volte bisogna cercare di convincerli a cambiare quello che loro hanno pensato, perché magari propongono delle cose che sono irrealizzabili e noi dobbiamo essere bravi a farli capire che in mare bisogna andarci in una maniera leggermente diversa. Un colpo di vento alla crisi, ci spiega Michele Antonini, che ai Cantieri Vismara si occupa di marketing e comunicazione. Sicuramente dopo 30 anni di attività fa piacere, dopo più di 30 anni di attività fa piacere vedere commesse fino alla fine del prossimo anno, quindi del 2016. Per noi questo è il dato più importante in questo momento, perché significa che il mercato sta riconoscendo il valore dei nostri prodotti, diciamo siamo in grado di raggiungere al meglio la clientela che è non solo italiana ma anche estera. Ci stiamo aprendo ad un mondo che non è il mondo che abbiamo sempre conosciuto, ma diciamo ci stiamo aprendo a tutti coloro che sono interessati a questo determinato tipo di prodotti. Lo stiamo facendo con una mentalità innovativa, lo stiamo facendo con dei prodotti nuovi, con dei sistemi nuovi, l'abbiamo fatto attraverso la costruzione di un team internazionale. Qualcuno parla di noi dicendo Vismara di Open Company, perché siamo in grado di mettere attorno al tavolo i migliori professionisti che siano in grado di donare qualcosa di più al cliente, di dare qualcosa di più al cliente. Quindi lo facciamo con i migliori progettisti, con i migliori studi di design, lo facciamo con i migliori cantieri che sono in giro per il mondo, che ci riconoscono come un punto nevralgico. Ai Cantieri Perini tutto è ancora più grande, come l'intuizione del fondatore che più di 30 anni fa ripensò le grandi imbarcazioni a vela che all'epoca quasi più nessuno osava costruire. Qui nel 2006 è stato varato Maltese Falcon, un capolavoro lungo 80 metri. È considerata l'imbarcazione più bella e più completa mai costruita al mondo. Burak Akgul, origini turche, è il manager del cantiere. Voi costruite navi, non barche? Assolutamente, noi costruiamo navi, costruiamo delle navi a vela di grande dimensione, siamo non solo costruttori ma anche progettisti però. Il signor Perini ha inventato una novità in quanto ha portato ad un mercato che allora, nei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80, ormai non esisteva più, cioè quella della barca a vela di grande dimensione, perché era un lavoro troppo difficile, troppo dispendioso di braccia per gestire un piano velico di grande dimensione necessitando un grande equipaggio. Il signor Perini, come appassionato velista, ha portato una tecnologia ed accoppiato a questa tecnologia un design che permetteva all'armatore che sceglieva di seguire questa passione e di portare la barca a vela con una persona e anche di viverla in una maniera che era inconsueto all'epoca. Questa tecnologia che ci ha permesso di fare questo si chiama il Captive Reel Winch, cioè il tamburo con la scotta catturata, la traduzione diretta, catturata sul tamburo, in modo tale che una persona opera da un pannello le scotte e gli avvolgitori per far sì che si controlla il piano velico, dove arriviamo anche a 2000 metri quadri di vele gestite da una singola postazione. In tutto ai Cantieri Perini di barche così ne hanno realizzate 55 che ora solcano i mari di tutto il mondo. Di recente abbiamo avuto un nostro 56 metri, una barca che si chiama Fidelis, che attualmente sta facendo rotta attorno a Capo di Buona Speranza, sono stati giù all'Antartide prima e prima di quello addirittura avevano fatto la navigazione per più di 1000 miglia lungo l'Amazzonia. A Genova c'è un altro cantiere che prende forma, è quello del Salone Nautico, quest'anno in scena per la 55esima edizione dal 30 settembre al 5 ottobre. Il quartier generale è alla sede di Ucina, la Confindustria Nautica che lo organizza. Da qui si guarda il settore con la chiarezza dei numeri e il senso della prospettiva tra le ombre della crisi e gli spiragli di luce di una ripresa da agganciare. Pietro Vassena è uno dei vicepresidenti di Ucina. La nautica in Italia, nonostante la crisi, è ancora uno dei gioielli del Made in Italy nell'export nel mondo. Diamo qualche numero? Sì, partirei purtroppo dai numeri cattivi, vale a dire un settore gravemente segnato dalla crisi. Nel 2008 la produzione, il mercato arrivava a circa 6 miliardi e 2 con un mercato interno che contava ben il 48%. Ad oggi, dato 2014, siamo a 2 miliardi e mezzo, segno positivo perché è un più 2 rispetto all'anno precedente. Il segno negativo è quello del mercato interno, che oggi non arriva a 200 milioni. Il dato è per noi gravissimo perché incide su tutto l'indotto, vale a dire ogni euro investito sulla produzione di un'imbarcazione crea poi un indotto sul territorio dove viene usata l'imbarcazione con moltiplicatori incredibili. Anche qui dato significativo: nel 2010 l'indotto del turismo nautico sul territorio contava all'incirca 4 miliardi e 6, siamo oggi a 1 miliardo e mezzo. Quindi in termini occupazionali cosa è accaduto in questi anni? Abbiamo perso circa 15.000 posti di lavoro diretti e appunto quei 4 miliardi circa che mancano nell'indotto contano tra le 30 e le 40.000 posti di lavoro. Un giro per i cantieri a Viareggio è stato l'occasione per cogliere comunque segnali in qualche modo beneauguranti, nel senso che ci sono comunque manifestazioni che indicano una ripresa. Ma per agganciare questa ripresa, cosa può fare il sistema paese? Stiamo lavorando con l'attuale governo che sembra ascoltarci. Purtroppo abbiamo ancora un retaggio, se vuole, dei danni creati anche semplicemente psicologici, l'introduzione della legge Monti, vale a dire i controlli, la persecuzione su chi utilizza la barca, nonostante vi siano adesso appunto delle aperture da parte del governo. Nonostante ciò è proprio la psicologia dell'utente che ancora soffre dei danni causati da quella drammatica legge che alla fine voleva raccogliere, ma è costata solo che 50.000 posti di lavoro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.